356. L'esso rifatto all'inglese. L'arte culinaria si potrebbe chiamare l'arte dei nomi capricciosi e strani. Tot in the hole, rospo nella tana, così chiamasi questo lesso rifatto, il quale, come osserverete dalla ricetta, e come sentirete mangiandolo, se non è un piatto squisito, sarebbe ingiuria dargli del rospo. A Firenze mezzo chilogrammo di carne dall'esso, che può bastare per 3 persone, resta netta dell'osso, grammi 350 circa, e prendendo questa quantità per base, frullate in un pentolo un uovo con grammi 20 di farina e 2 decilitri di latte. Tagliate il lesso in fette sottili e, preso un vassoio che regga il fuoco, scioglieteci dentro grammi 50 di burro e distenditelo sopra questo, poi conditelo con sale, pepe e spezie. Quando avrà soffritto da una parte e dall'altra, spargetegli sopra una cucchiaiata colma di parmigiano e poi versate sul medesimo il contenuto del pentolo. Lasciate che il liquido assodi e mandatelo in tavola.